Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, incontro con Clara Sanchez. L'ultimo romanzo dell'autrice spagnola si intitola Le cose che sai di me e ha vinto il premio più importante in patria. Lorenzo Beccati, autore televisivo e voce del Gabibbo, ma anche scrittore di gialli storici. Pietra è il mio nome è il suo ultimo libro. Le anticipazioni del domenicale del Sole 24 Ore. Clara Sanchez è sicuramente una delle autrici straniere più amate in Italia. Ogni volta che esce un suo libro, diciamo dal profumo delle foglie di limone in poi, arriva sempre da noi in classifica, nella classifica dei 10 libri più venduti. Ed è la stessa cosa che è successa con Le cose che sai di me, pubblicato da Garzanti, come tutti i suoi romanzi, il 6 febbraio scorso, quindi è uscito insomma da pochissimo. Tra l'altro, questo romanzo di Clara Sanchez ha vinto in Spagna il premio Planeta, che il premio letterario più importante, insomma sarebbe come da noi vincere lo Strega. E la Sanchez è l'unica autrice spagnola che ha vinto i 3 premi letterari spagnoli più importanti: l'Alfaguara nel 2000, il premio Nadal nel 2010 e appunto il premio Planeta, come dicevamo, l'anno scorso con Le cose che sai di me. Protagonista di questo romanzo è Patricia, una modella, ha un fidanzato che è un artista piuttosto introverso, poi c'è il capo dell'agenzia di modelle, il suo braccio destro. A questa Patricia iniziano ad accadere delle cose strane e quando appunto si ricorda che su un volo dall'India a Madrid una donna piuttosto eccentrica le aveva detto che qualcuno voleva la sua morte. Tutto inizia dunque su questo volo. E allora sentiamo come ci racconta l'incipit di questo romanzo la stessa Clara Sanchez con la traduzione di Rossana Ottolini. Es un vuelo muy, muy turbulento, es uno de esos vuelos en que parece que te vas a despedir del mundo, que el avión se va a estrellar. Y en ese momento la vecina de asiento, que es una mujer, bueno... Si tratta di un volo molto turbolento, uno di quei voli dove uno arriva a pensare che forse dovrà dire addio per sempre alla vita perché l'aereo finirà per schiantarsi. Ed è proprio in questo momento che Viviana, che è la sua vicina di posto, le prende le mani come per infondersi reciprocamente coraggio, la guarda negli occhi e le dice che qualcuno non lo vuole uccidere ma desidera sì la sua morte. Il romanzo parla anche dei desideri degli uni sugli altri, diversi desideri ovviamente. In quel momento Patricia non dà molta retta all'avvertimento di Viviana, ma poi una volta tornata a Madrid le succedono tutta una serie di cose, una serie di incidenti che si la spingono a far sì che il sospetto nasca in lei e a porsi delle domande. Quindi per così dire lei entra in una sorta di loop di paranoia che nella vita normale razionalmente definiremo appunto paranoia e nient'altro, ma nel quale di un romanzo thriller psicologico poteva essere un detonatore fantastico per dare via alla storia. La paranoia di Patricia era un desencadenante meraviglioso e da lì surgiò tutta la novella. Come un po' nel profumo delle foglie di limone, quello che appare è molto diverso da quello che è reale, c'è questo gioco delle persone che in realtà non sono esattamente quello che appaiono, è così? Sì, esattamente, perché è una costante dentro le mie novelle, perché è una costante dentro la mia vita. Eh sì, è proprio così. Diciamo che questo elemento è una costante sia nei miei romanzi ma anche nella mia vita. Sono sicura che noi non siamo affatto così come appariamo, come ci presentiamo, nel bene e nel male. E Patricia ad un certo punto ha bisogno di capire, di scoprire chi davvero la circonda, chi sono le persone intorno a lei. Nella sua vita possiamo dire che c'è un prima e un dopo, e il cui spartiacque è l'incontro con Viviana. Prima lei è fiduciosa nei confronti di tutto e di tutti e da quel momento in poi invece comincia, soprattutto quando le capitano quelle cose, comincia a guardare con un certo sospetto le persone che la circondano, soprattutto le guarda con occhi diversi, a cominciare da Elia, suo marito, e comincia a chiedersi se il grande amore che lei sente per lui è un amore che la rende più forte o la rende più debole, perché è un romanzo che parla anche, tratta anche della tematica dei vampiri emotivi, potremmo definirli così. Non sono vampiri che ci succhiano il sangue ma sì le energie, e a volte sono proprio le persone più vicino a noi, quelle che ci vampirizzano maggiormente e che sono più dannose nei nostri confronti. Las más dañinas, contra las que no tienes fuerza ni recursos para luchar. In altri tuoi romanzi, per esempio in Entra nella mia vita, si faceva riferimento anche a fatti storici realmente accaduti. In questo caso hai preso spunto da qualche fatto reale che ti ha colpito o è frutto solo di fantasia? Uy, son muchos factores reales, porque en mis anteriores novelas, aunque hay un... Sono stati tanti i fattori riconducibili alla realtà che mi hanno portato a scrivere questo romanzo. Anche nei precedenti romanzi c'erano sempre dei fattori reali da cui sono partita, magari fattori di tipo storico, che però sono anche nel nostro presente, come era il caso dei nazisti sulla Costa Brava. Qui ci sono tanti fattori riconducibili alla mia vita normale, come ad esempio la fotografia che ho visto in quella rivista mentre ero dal parrucchiere, dove ho così incontrato questo sguardo perso, pieno di paura, di questa modella, e mi sono chiesta cosa può succedere a una modella, a una ragazza che è giovane, che è bellissima, che è magra, che ha tanti soldi, che cosa può temere, di che cosa può avere paura della vita. E quindi questo mi ha dato la possibilità di cominciare a parlare della paura, di quella paura sottile che abbiamo un po' tutti, magari di non piacere, magari di non essere accettati, di essere rifiutati, non solo respinti in amore, ma anche respinti dal club, dal luogo di appartenenza a cui teniamo a appartenere, soprattutto anche dal mondo del lavoro. E ho pensato che questo tipo di paura fosse particolarmente presente nel caso di Patrizia, perché lei vive della sua immagine, vive del fatto di piacere agli altri, quindi questa paura era particolarmente intensa per lei. E poi ci sono stati anche altri fattori, altre diciamo cose di natura personale, per esempio gli incidenti che colpiscono Patrizia si sono inanellati nella mia vita in un periodo di tempo abbastanza breve, al punto da farmi pensare che qualcuno mi avesse fatto una sorta di sortilegio maligno. E quindi questo mi ha permesso di parlare della paranoia, di quelle paure poco concrete, oppure di paure più concrete, ma non solo, mi ha anche permesso di parlare dell'amore, come dicevamo prima, come qualche cosa che ci può dare maggiore forza oppure ci può rendere più deboli, e mi ha permesso di parlare di un altro sentimento che penso sia molto presente nella società spagnola degli ultimi anni, che è la diffidenza. Negli ultimi anni siamo diventati come società più diffidenti, prima eravamo come Patrizia, persone fiduciose, e il nostro dopo ci ha resi diffidenti perché ci siamo sentiti ingannati, truffati, manipolati da chi in qualche modo muoveva le corde del potere. Credo che questa tematica della diffidenza sia davvero importante, perché può portarci ad essere persone peggiori, più malevole, più cattive, più canagliesche, ma può anche in realtà indurci a ribellarci, ad essere più esigenti nei confronti di chi ci gestisce, e chi ci governa e chi gestisce magari le nostre risorse. Ovviamente io opto per la seconda posizione. O bien nos puede hacer gente más rebelde, con más criterio y más exigente en la vida. E io opto per lo ultimo. E questa era Clara Sanchez nella traduzione di Rossana Ottolini, mentre il suo romanzo Le cose che sai di me è stato tradotto da Enrica Budetta. Si intitola Pietra è il mio nome, pubblicato da Editrice Nord, e l'ha scritto Lorenzo Beccati. Lorenzo Beccati è un autore televisivo molto noto in Italia, insomma, un autore storico. Lorenzo, di tu qualcuno dei tuoi programmi? Beh, partiamo dal Drive-In fino ad arrivare a oggi, Striscia la notizia. È mica poco. No, però non mi andava di vantarmi. Lorenzo Beccati è comunque anche uno scrittore soprattutto di gialli storici. Ne cito alcuni di cui avevamo già parlato a Radio 24 un bel po' di tempo fa, insomma, perché qualche anno è passato. Allora, mi ricordo per esempio che avevamo parlato del Guaritore di maiali e Il mistero degli incurabili. Adesso invece hai scritto questo Pietra è il mio nome, ambientato, come sempre, a Genova, come spesso fai con i tuoi romanzi, ambientato nel 1500. La protagonista è questa Pietra, questa ragazza, che viene chiamata anche la tunisina perché, insomma, era una ragazza orfana, poi viene adottata da una famiglia di Genova, insomma, poi si scopre tutto nel romanzo, naturalmente. La prima scena che ci presenti è quella di un incendio che avviene in uno dei carruggi di Genova. Dove e come? Cosa succede? Va a fuoco il Palazzo dei Negri, una stirpe nobile dell'epoca, ma soprattutto è carnevale. e di conseguenza tutti sono vestiti, agghindati, perché già allora, a quell'epoca, si faceva, insomma, la gente si mascherava, si truccava, si vestiva, c'erano addirittura degli interi gruppi, insomma, c'erano un gruppo di fauni, un gruppo di... E io l'ho ambientato esattamente nel giorno di Carnevale, c'è una grande festa, quasi non si accorgono di quello che sta accadendo, ma il palazzo brucia. Da lì, ovviamente, si dipanano fughe, urla... L'acqua, arriva l'acqua portata da qualche persona così, diciamo, caricatevole, però l'acqua non basta e piano piano questo incendio divampa e divora il palazzo. E qui compare appunto la protagonista Pietra, perché a Pietra viene chiesto dal signore, insomma, di questo palazzo di salvare suo figlio che è rimasto all'interno del palazzo. Perché chiedono a Pietra? Perché Pietra è conosciuta come una rabdomante. Sì, Pietra è una rabdomante, sono convinti in Genova che lei abbia questi grandi poteri, e le rabdomanti allora non erano come oggi che, diciamo, tutto sommato cercano solo l'acqua, i metalli, ma allora cercavano anche cadaveri, persone scomparse, evasi addirittura, dovevano anche scoprire se la tappezzeria andava bene con i capelli della dama che vi abitava davvero, per cui se non erano compatibili o si cambiava la tappezzeria o si cambiava la dama. Avevano un potere notevole, un grande potere, perché magico, curavano addirittura le malattie, davano le medicine, insomma, per cui la dama del palazzo si accorge di questa Pietra e vede una speranza per il figlio che è all'interno e non riescono a trovarlo, tra le fiamme probabilmente si sarà nascosto. Allora Pietra impugna la sua bacchetta e lo fa finché gli occhi degli astanti non la guardano, dopodiché getta via la sua bacchetta, per lei inutile, e grazie alla sua intelligenza prova a cercare questo bambino. Infatti Pietra è un personaggio femminile bellissimo, perché lei a un certo punto dice nel tuo romanzo: è più facile credere ad un pezzo di legno o a un osso di balena che all'intuito di una donna. Insomma, all'epoca bisognava far finta di essere magiche per dimostrare di essere intelligenti e capaci. Credo proprio di sì, ma tutto sommato anche ai giorni nostri credo che sia per le donne preferibile far così. Addirittura lei è una rabdomante, ma non ha i poteri ovviamente, non crede nella rabdomanzia, ma di sicuro è una donna intelligente, capace, deduttiva, e cosa fa quando scopre i vari misteri? Dà il merito alla bacchetta. Eh sì, perché questo è l'unico modo per, diciamo, passare quasi inosservata, insomma, esatto, per non attirare troppo l'attenzione sulla sua intelligenza. Certo. Infatti in un altro brano del romanzo scrivi: Pietra riflette su quanto la gente sia disposta a credere alle cose più assurde, su quanto siano cieche le persone, per non dire stupide. È meravigliosa, cioè lei sa di essere, come dire, una spanna sopra gli altri, però sì, lascia credere agli altri che di avere poteri magici. Sì, perché è più facile appunto credere nei poteri magici, in magie, in poteri occulti, piuttosto che all'intelligenza di una donna. Allora Lorenzo, questo però è un giallo e quindi c'è sicuramente un morto, lo si scopre subito. All'inizio una ragazza viene pestata a sangue, viene uccisa proprio a botte. Sì. E Pietra deve indagare, in qualche modo, deve capire che cosa è successo a questa ragazza, deve capire cosa c'è dietro questo omicidio. In che modo riesce appunto ad indagare su questa vicenda? Beh, intanto viene attirata proprio dal bargello, dal capo della polizia, perché questa signora, questa donna, questa ragazza della stessa età di Pietra uccisa ha tra le mani una bacchetta da rabdomante. Da lì non è difficile sospettarla, poiché lei è l'unica rabdomante. Qualcuno ha cercato di incastrarla, insomma. Esatto, pare proprio di sì. Di conseguenza lei piano piano cerca di indagare, perché poi ovviamente questi assassini, omicidi continuano, ce ne saranno altri. E lei, più che scoprire, diciamo, l'assassino, è tenuta a scoprire, a salvare le vittime che verranno, insomma. Per cui è questo il suo compito. Quindi prevenire l'assassino, cioè arrivare prima dell'assassino. E si scopre ben presto anche nel romanzo che lei è una dell'elenco, è nell'elenco dell'assassino. Insomma, lei deve combattere contro un serial killer. Contro un serial killer di sicuro, e poi contro i pregiudizi degli uomini, insomma, che è una buona parte del romanzo. Ecco, sì, infatti. Era strano per l'epoca, appunto parliamo del XVI secolo, pensare a una donna che, diciamo, riuscisse a scoprire delle verità. Era difficilissimo, noi vediamo purtroppo quante poche pittrici ci siano, tutto sommato, tra donne e uomini, o quante scrittrici, poetesse ci fossero all'epoca, ben poche, ma io sono convinto, allora come oggi, che sicuramente le donne avevano un potere creativo e, diciamo, di creare dal nulla un mare di roba, insomma, ma non potevano farlo. La maggior parte poi era addirittura analfabeta, come ben sappiamo. Non era importante per una donna che avesse anche una cultura. Per cui credo che non sia cambiato poi molto, insomma. Tu ti sei un po' innamorato di Pietra, del tuo personaggio, scrivendolo? Non c'è nessun dubbio. Sì, mi sono innamorato perché è una donna di una bellezza non convenzionale, non banale. È una donna intelligente, capace, sensibile, però tutto sommato riesce anche a dare delle zampate non indifferenti, cioè ha una capacità di reagire al male e alle ingiustizie davvero forte, e questo mi piace molto. Naturalmente tu ti documenti molto sui periodi storici, ambientando appunto i gialli nel passato. In questo caso ti sei fatto ispirare da una storia vera oppure è tutta fiction? No, ci sono, come sempre nei miei romanzi, dei personaggi realmente, diciamo, esistiti all'epoca. Il Doge, i due Doge, anzi, che io cito, sono esistiti, e soprattutto questo Giuseppe Pavoni, che era lo stampatore dell'epoca, era l'unico stampatore che poteva davvero stampare libri a Genova, con il permesso del Doge e di due persone che venivano chiamate i due di casa. E questi era il loro compito, proprio decidere se un libro andava o non andava stampato, a insindacabile giudizio. E Pavoni è davvero esistito, la sua tipografia è davvero esistita in Genova, ora se ne sono ovviamente perse le tracce. E io gioco molto spesso tra la fiction e il reale. C'è da dire che, appunto, essendo ambientato nel 1500, nessuno ti può far causa oggi. Beh, spero di no, gli eredi credo che siano piuttosto lontani. E comunque io davvero... Rispetti una verità storica. Sì, ci metto veramente tanta pazienza a raccogliere tutte le notizie dell'epoca, notizie storiche, vado addirittura a spulciare negli archivi di Stato piccole notizie come magari beghe tra vicini, beghe ereditarie, proprio per andare più a fondo e conoscere meglio la vita quotidiana dell'epoca. Quando leggo questi romanzi ambientati appunto nel passato, a metà fra fiction e sfondo storico reale, mi viene sempre una domanda, cioè c'è un doppio aspetto, un aspetto che incuriosisce il lettore, cioè anche magari a sapere, a conoscere meglio quel periodo storico, veramente sono esistiti Tizio, Caio e Sempronio, dall'altro però si possono confondere i piani, magari si pensa che veramente a quell'epoca siano successe determinate cose. Come il lettore, diciamo, può filtrare un romanzo come il tuo? Io credo che i lettori siano veramente intelligenti e che comunque nella scrittura si capisce piuttosto bene, a mio giudizio, si dividono i personaggi reali da non reali. Comunque a me non dispiace l'idea che ci sia un po' di confusione, perché anche quelli, i personaggi non reali, sono plausibili, per cui è molto probabile che una persona del genere, di quel tipo, si sia comportato in quella maniera, che davvero sia stato vivo in quell'epoca, per cui lo rendo plausibile, per me è già molto, insomma. E poi si apprendono anche cose curiose, per esempio anche cose che non si sanno, che io stesso non so. Per esempio racconto di una suora che ha una dentiera, cosa che magari non ci si immagina che ci possa essere all'epoca. All'epoca invece c'era una dentiera con le molle. È vero che dovevano serrare molto le mascelle, perché c'erano proprio delle molle molto forti, per cui al minimo tentennamento, trac, si spalancava la bocca e non era forse un bel vedere. Però già esistevano allora. Per cui è una cosa anche curiosa per chi come me ricerca scoprire delle cose, insomma. Tu ambienti spesso i tuoi romanzi a Genova, tu sei genovese, ormai conoscerai benissimo anche il contesto storico della tua città, appunto perché hai fatto diversi studi. Ma perché sempre lì? Mi fa morire questa cosa che ci sono degli scrittori molto affezionati a determinati luoghi più che magari a dei personaggi. Non so, mi viene in mente Andrea Vitali con il suo lago di Como. Camilleri, certo. E Camilleri, certo. Insomma... Beh, Hemingway diceva che si deve sempre scrivere di ciò che si conosce, insomma. Io Genova la bazzico spesso, ogni volta che posso. Questi Carugi sono veramente aria storica, perché basta alzare un attimo la testa e la storia a Genova ti cola addosso, insomma. Per cui conosco bene l'ambiente, conosco bene i personaggi che ci possono essere stati e che magari ci saranno, insomma. Per cui mi ci trovo bene. E comunque è il centro storico più grande d'Europa, Genova, con i suoi Carugi, per cui, cioè, ci si muove in un ambiente potente. E poi nel mio periodo, nel periodo che io racconto, Genova era forse la più grande potenza del Mediterraneo, per cui non era esattamente una città qualunque, insomma, l'epoca era potente. Tu sei un autore televisivo di programmi molto ironici, abbiamo citato per esempio Striscia la Notizia, Paperissima. Quando scrivi romanzi, ogni tanto così ti viene voglia di metterci una battuta ironica, poi dici, ah no, sto scrivendo un romanzo, correggiamo. Sì, qualche volta mi succede, ma per fortuna ci sono gli editor sotto che dicono, aia, allora mi ci fanno mettere l'occhio, insomma, in genere cambio. Però le atmosfere che io riesco a creare, anche per me stesso, mi ci infondo, mi ci calo completamente, che non capita spesso. Quando mi capita, insomma, a volte mi censuro e a volte mi dicono no, non va bene. E allora alla fine di questa intervista sveliamo che Lorenzo Beccari anche l'inventore, insomma la voce del famosissimo Gabibbo. Questa cosa ormai te la porti come una croce addosso oppure è una cosa che ti fa piacere? No, è una cosa che mi fa molto piacere perché è un modo particolare di essere conosciuto, no? Per cui non è che per strada mi fermino dicendo il Gabibbo, però nello stesso tempo... Eh no, non hai la faccia del Gabibbo. Non ho la faccia del Gabibbo, per mia fortuna, ma essere comunque conosciuto in maniera indiretta così è una cosa che mi fa piacere. Poi il Gabibbo riceve circa 1000 segnalazioni al giorno. Ogni giorno da 26 anni, insomma, per cui è anche una cosa appagante che si rivolgano 14 kg di moquette per avere giustizia, ed è quello che è il Gabibbo, 14 kg di moquette. Prestargli la voce è una cosa che mi fa piacere e tra l'altro è una cosa diversa da me, anche quando lo sento parlare in una registrazione, per me il Gabibbo non sono io, per cui c'è anche questo distacco. Cioè il personaggio ha preso la sua autonomia. Ha preso, insomma, un'autonomia totale, io gli presto la voce, ma come potrei prestargli dei soldi, oppure l'ombrello, insomma, è la stessa cosa. Grazie a Lorenzo Beccati, ora in libreria con Pietra e il mio nome, un romanzo giallo ambientato nel 1600, pubblicato da Editrice Nord. È il momento di sentire quali saranno alcune delle cose presenti domani sul Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Armando Massarenti, il curatore, allora che cosa ci proponi? Ma poniamo un testo di Raffaele La Capria, lo scrittore napoletano, che è un testo molto, molto particolare perché è l'anticipazione di un epistolario che lui ha tenuto intorno alla metà degli anni 90 e che adesso ha deciso di pubblicare con un suo lettore, con un suo appassionato lettore, come tanti, ma poi perché si è soffermato con questo e a lungo ha avuto uno scambio epistolare? Perché a un certo punto lo è andato a trovare questo lettore con la sua moglie, una giovane donna molto bella, e lui è rimasto come ammaliato da questa donna, non c'è stato ovviamente nulla tra di loro, ma è molto bello vedere queste lettere in cui si stabilisce questa specie di relazione fatta di grande affettuosità tra i tre, e dove La Capria si lascia molto ad andare sui suoi giudizi letterari, proprio perché è favorito da questa bella relazione che si era realizzata, in cui si sono incontrati alcune volte. Dunque, insomma, un grande scrittore italiano visto in una veste molto molto particolare e direi assolutamente deliziosa. Grazie Armando Massarenti, queste le anticipazioni del Domenicale del Sole 24 Ore, domani in edicola. E ora qualche segnalazione di libri che sono appena usciti o che usciranno, insomma, la prossima settimana. Allora, innanzitutto un paio di segnalazioni per gli appassionati di avventura, perché Longanesi ci propone, ci è appena uscito in libreria, il nuovo romanzo di James Patterson, Il ritorno del killer. È una nuova avventura di Alex Cross, che è un po' il protagonista seriale, insomma, dei romanzi di Patterson. Deve appunto sposarsi, Alex con la sua compagna la detective Bree, ma naturalmente viene chiamato per risolvere un delitto, perché è stato ucciso un parlamentare corrotto. Da qui, insomma, tutta una catena di delitti fra i politici disonesti di Washington. E sempre Longanesi ci propone Sabotaggio di Clive Cussler, un altro maestro dell'avventura. E torna con il secondo romanzo della serie, Isaac Bell. Isaac Bell è un agente dell'agenzia investigativa Van Dorn. E come sempre, Cussler in questo romanzo mescola vita vera e fiction. Un libro uscito veramente da poco che ci propone Einaudi è dello scrittore torinese Andrea Baiani, uno scrittore che amo molto. Si intitola La vita non è in ordine alfabetico. In questo libro Baiani, che lo ricordiamo è stato autore di romanzi come Ogni promessa, Domani niente scuola e l'ultimo Mi riconosci, dedicato a Tabucchi. Tra l'altro ricordiamo anche che Baiani è l'organizzatore, diciamo, della sezione giovane del Salone del Libro di Torino. Dicevamo, in questo nuovo libro, La vita non è in ordine alfabetico, si analizza un po' qual è il significato delle parole e come cambia la vita delle persone nel momento in cui da bambini iniziano a conoscere l'alfabeto, e quindi finisce un po' il mondo in cui le cose succedevano e inizia un mondo in cui le cose possono essere descritte attraverso le parole. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Fabio Cantadori. Vi ricordo come sempre che ci trovate su Twitter come Ale Teddina, ci trovate ovviamente su Facebook e trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it cliccando nella sezione Programmi e poi nella sezione Il Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.